Comente. So make sure you're standing comfortably. Mettetevi in piedi in modo confortevole. Balanced. Bilanciate. And then lifting up through the top of the head. Tirare su la sommità della testa, del capo. Draw your attention now to the brow. Relax the brow. Portate la vostra attenzione alla fronte e rilassatela. Eyes just looking ahead of you. E gli occhi devono guardare semplicemente davanti. The jaw relaxed. La mascella si rilassa. So you can shake it about a bit if there's tension there. Potete scuotere un po' per togliere la tensione. Lips together, teeth apart. Labbra chiuse, ma denti separati. Shoulders, give them a squeeze if there's tension. Date un movimento anche nelle spalle per sentire la tensione. Relax the tension. E rilassate la tensione. Hands by your side or in front, doesn't matter. Le mani ai fianchi o anche davanti. So just acknowledge that posture. Quindi rendetevi conto semplicemente della postura. The energized spine. Spina energetica. La spina, l'energia della spina. Sì. And everything else relaxed. E tutto il resto si rilassa. Draw your attention to the soles of your feet. Portate l'attenzione alle piante dei piedi. What sensations can you feel there? Che sensazione si sente là? Can you isolate the sensations of pressure? Potete isolare la sensazione di pressione? Maybe also of temperature, coolness, warmth. Forse anche la temperatura, fresco, calore. Can you feel those more subtle sensations that tell you what you're standing on? Potete sentire quelle sensazioni più sottili che vi dicono su che cosa state appoggiando. Parts that don't seem to have any feeling, very neutral feelings. Parts of the feet that don't have any feeling, neutral feeling. Ci sono delle parti dei piedi che non hanno nessuna sensazione, una sensazione neutrale. Can you acknowledge how all these sensations are constantly changing? Potete rendervi conto che tutte queste sensazioni costantemente cambiano. As the body rebalances itself. Mentre il corpo si ribilancia. The body rebalances itself. Il corpo si rimette in equilibrio. Can you acknowledge that these sensations arise whether you want them to or not? Potete rendervi conto che queste sensazioni insorgono che lo vogliate o meno. Take your time. Prendetevi tempo. And come up the body. Come up. Calmate il corpo. And just see what you can feel inside the body and on the surface of the body. E andate a vedere quello che potete sentire dentro il corpo e sulla superficie del corpo. When you get to the abdomen, is there tension there? Quando arrivate all'addome, c'è tensione lì? Can you feel the breath there? Potete sentire il respiro nell'addome? The sensations caused by the breath. Le sensazioni causate dal respiro. Do you feel the breath more around the stomach? Sentite il respiro forse più vicino allo stomaco, intorno allo stomaco? Is there any tension there? C'è qualche tensione lì? Can you feel the breath in the chest? Potete sentire il respiro nel torace? Is there any tension there? E c'è qualche tensione lì? Feel the heartbeat? Sentite il battito cardiaco. Shoulders still relaxed. Le spalle sono ancora rilassate. Need another squeeze. Potete muoverle. The jaw. La mandibola. Lips together, teeth apart. Labbra chiuse, denti separati. The brow. La fronte. When you get to the scalp, scan it like you did the soles of your feet. Quando arrivate al cuoio capelluto, just feel the sensations. Sì, sentite le sensazioni come avete fatto per le piante dei piedi. Now, without moving the eyes. Ora, senza muovere gli occhi. Become attentive to what's outside you. Ponete l'attenzione su ciò che sta fuori da voi. The sounds. I suoni. The shapes and colors ahead of you. Forme e colori. The atmosphere of the room. L'atmosfera della stanza. The presence of other people. la presenza delle persone. So your attention is out there. La vostra attenzione è là fuori. Now at the same time, become aware of what's in here. Allo stesso tempo, ora diventate consapevoli di ciò che è qui dentro. Both inside and outside. Sia fuori che dentro. So this is the bubble of our consciousness. Questa è la bolla della nostra consapevolezza, della nostra coscienza. This is the world we live in. È il mondo in cui viviamo. This is our universe. È il nostro universo. And we're always at the center of it. Noi siamo sempre nel centro. You can't escape it. Non possiamo sfuggirlo. So relax. E quindi rilassatevi. Just relax into this present moment, wide awake. Rilassatevi nel momento presente, completamente svegli. And just see how the attention is drawn now to something you hear, now to something you feel, and so on. E sentite come la vostra attenzione viene Drawn, viene portata su a volte ciò che si sente, ciò che si prova con il corpo, ciò che si sente con l'udito. Don't decide what you're going to experience. Non decidete quello che state per fare esperienza. Just let the attention be drawn. Semplicemente lasciate che l'attenzione venga condotta. Ecco. Relaxing into this present moment, wide awake. Rilassandosi in questo momento presente, completamente svegli. In this mode, just being. In this modo, in questo modo, semplicemente essere. We can let go of ideas of achieving something. Possiamo lasciare andare le nostre idee di ottenere qualcosa. When we're in the mode of achieving, of doing, we're always doing something now for some future result. Quando noi siamo nella modalità di ottenere, di fare, stiamo sempre cercando qualcosa per un risultato nel futuro. But in this mode, just being, this is the result. Ma in questa modalità, solamente essendo, questo è già il risultato. There's no reason for being. Non c'è una ragione per essere. It just is. È semplicemente è. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandosi nel momento presente, completamente svegli. In this mode there's no future. In questa modalità non c'è futuro. There's only this ever-present moment. C'è solo questo momento sempre presente. So there's no need to plan. Non c'è bisogno di fare piani. We're not going anywhere. Non stiamo andando da nessuna parte. We're always arriving. Stiamo arrivando, sempre arrivando. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandosi nel momento presente, completamente svegli. In this mode, we're just receiving. In questa modalità stiamo semplicemente ricevendo. We're not reacting, we're not responding. Non stiamo reagendo, non stiamo rispondendo. In which case, we don't have to be somebody, a personality. E in questo caso non dobbiamo essere qualcuno, avere una personalità. We don't have to perform. Non dobbiamo compiere niente. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandosi nel momento presente, completamente svegli. Inhabiting the present moment. Abitando nel momento presente. Achieving nothing. Ottenendo niente. Going nowhere. Andando da nessuna parte. Being nobody. E essendo nessuno. In this mode we're developing 5 of the 7 factors that lead to liberation. In questa modalità noi stiamo sviluppando 5 dei 7 fattori che portano alla liberazione. Alla liberazione. Awareness, la consapevolezza, a steadiness of attention, un'attenzione stabile, and the energy, the effort needed to maintain that. E l'energia di cui c'è bisogno per mantenere questa. A sense of calmness, un senso di calma, and equanimity. E equanimità. Equanimity here means the balanced mind. Qui equanimità significa equilibrare la mente. Not coming from a position of I know. Non venire da, non guardare le cose da una posizione di io so. From a view or a prejudice. Seguendo pregiudizi o modi di vedere. Open-minded. Con la mente aperta. We're not coming from a position of greed or aversion. Non veniamo da una posizione di bramosia o avversione. Of prejudice or preference. O di pregiudizio o di preferenza. A very open-hearted. Abbiamo il cuore aperto. Open-minded, open-hearted. La mente aperta, il cuore aperto. This is the basis, this is the base of our meditation practice. Questa è la base della nostra pratica di meditazione. And then we bring in a sense of curiosity. E poi portiamo dentro a questo anche un senso di curiosità. We are investigating the three characteristics of existence. Noi stiamo investigando le tre caratteristiche dell'esistenza. Impermanence. Impermanenza. Why we are not fully satisfied. Perché non siamo completamente soddisfatti. And whether this sense of I truly exists or is real or not. E se il senso dell'io esiste veramente o no. Yeah, better, is real or not. Se è reale o no. This mode is very important in ordinary daily life. Questa modalità è molto importante nella vita di tutti i giorni. Because if you stop like this after doing something, perché se ci, if you stop, yeah, if you stop like this, ah, se vi fermate in questo modo dopo aver fatto qualcosa, a telephone call, a meeting, some work, una telefonata, una riunione, lavoro, then you can see any negative states that you've developed. A quel punto potete vedere qualsiasi stato negativo che avete sviluppato. Some anxiety, some irritation and so on. Come l'ansia, l'irritazione, eccetera. So you can just be very still and wait for that to begin to evaporate. E quindi potete stare semplicemente fermi e aspettare che questa cosa cominci a evaporare. And then you can see the next intention. E allora potete vedere la prossima l'intenzione successiva. If the intention is not wholesome, se questa intenzione non è salutare, all you have to do is stay very still and wait for that energy to exhaust itself. E tutto ciò che dovete fare è di stare sempre molto fermi e aspettare che questa energia si esaurisca da sola. If you see the intention is wholesome, se vedete che l'intenzione è salutare, then you empower it. Gli date potere. Just in this very simple way we can completely change ourselves. E proprio in questo modo così semplice possiamo cambiarci completamente. But it takes this level of attention. E questo ha bisogno di questo livello di attenzione. Our next intention is to sit. La nostra prossima intenzione è di sederci. Really take your time. Prendetevi veramente il tempo. Just see how many actions it takes just to get this body into a sitting posture. E guardate quante azioni sono necessarie per mettere questo corpo in una posizione seduta. In this tradition we use little noting words. In questa tradizione si usano delle piccole parole come annotazioni. This helps us to stop the mind wandering. Questo aiuta a fermare la mente che vaga. But the attention is always towards feeling sensation. L'attenzione è sempre verso le sensazioni. So stretching, moving, lifting, pushing. Quindi stirare, muovere, alzare, spingere. Così. In questo modo. Intending to sit. Intenzione di sedere. For those of you who are not used to sitting, per quelli di voi che non sono abituati a sedere, it's probably easier to kneel, you know, sit on the cushion and kneel. È forse più facile stare in ginocchio, cioè seduti su un cuscino, sì, e con le ginocchia piegate. Make the cushion high so that you're not squashing the legs. Rialzate il cuscino in modo da non schiacciarvi le gambe. Così. Vabbè. If during the retreat the pain in the legs becomes ridiculous. If during the retreat the pain in the legs become ridiculous. Ridiculous. Se durante il ritiro il dolore nelle gambe diventa ridicolo. Then you can always sit on a chair. Potete sempre sedervi su una sedia. Yeah. Ridiculous. Ridiculous. Our purpose is not to make ourselves suffer more. Il nostro scopo non è quello di farci soffrire di più. Just make sure that your posture is correct. Ecco, assicuratevi che la vostra postura sia corretta. So the spine has its natural curvature. La spina deve avere una curvatura naturale. And you're lifting yourself up through the top of the head. E tirate su la punta della testa. Now there are muscles that you can find in the abdomen. Ci sono dei muscoli, si possono sentire nell'addome, which support the spine, che supportano la spina dorsale. If you can find them, they push the body up. Se li trovate, questi tirano su il corpo. And when you do that, the breath in the abdomen becomes very clear. E quando lo fate, il respiro nell'addome diventa molto chiaro. These are muscles that we don't normally use. Sono dei muscoli che normalmente non usiamo. So again we have this energy up the spine. E quindi ancora abbiamo questa energia che va su per la spina dorsale. And just spending a moment relaxing. E spend a passiamo moment. Alcuni momenti per rilassarci. The brow, fronte, sopracciglia. Eyes gently closed. Gli occhi chiusi in modo gentile. Lips together, teeth apart. Le labbra chiuse, ma i denti separati. Give the shoulders a squeeze if there's tension there. E muovete le spalle per sentire se c'è tensione. And hands on your lap. Le mani appoggiate sul grembo. Whatever is comfortable. Qualsiasi cosa in modo confortevole. Acknowledge that posture. Prendete coscienza di questa postura. The energy lifting up the spine. L'energia che innalza la spina dorsale. Everything else relaxed. Tutto il resto rilassato. If during the sitting the body becomes tense, Se durante la seduta il corpo diventa teso, spend a moment relaxing it. Passate un momento rilassandolo. If the body begins to flop, lose energy. Se invece il corpo comincia a flosciarsi, a perdere energia, spend a moment lifting the energy up the spine. Passate un momento a riportare l'energia sulla, su in alto sulla spina dorsale. And begin to use these little noting words, which you may find very useful. E cominciate a usare queste piccole parole di annotazione che possono essere molto utili. Lifting, lifting, relaxing, relaxing. Innalzare, innalzare, rilassare, rilassare. Draw your attention now to the breath. E ora portate l'attenzione al respiro. Where you feel it in the body. Dov'è che lo sentite nel corpo? So it might be more obvious in the abdomen. Potrebbe essere più evidente nell'addome. Or maybe in the chest. O forse nel torace. Just rest your attention on the gentle sensations caused by the breath. Portate gentilmente l'attenzione alla sensazione causata dal respiro. As the abdomen rises, rising, rising. E mentre l'addome si innalza, innalzare, innalzare. As it falls, falling, falling. E mentre scende, scendere, scendere. If the mind is wandering, se la mente va in giro, recognize and acknowledge. Riconoscetelo e prendetene coscienza. The emotion or attitude which is driving the mind. Riconoscete e prendete coscienza delle emozioni e delle attitudini che stanno guidando la mente. Planning, planning. Pianificare, pianificare. Worrying, worrying. preoccupazioni. Exciting. Eccitazione. And then just bring the attention back to the breath. E poi riportate l'attenzione al respiro. Feeling already dull or tired. Dull in the mind. Sentire la mente ottusa o stanchezza. So keep lifting the body. E continuare allora a innalzare il corpo. If it gets worse, you can open the eyes, let the light in. Se dovesse peggiorare, aprite gli occhi. But keep the attention inward. Ma tenete l'attenzione all'interno. You can even stand up and do this practice. Potete anche alzarvi in piedi e fare questa pratica. Resting the attention on the gentle sensations caused by the breath. Lasciar riposare l'attenzione sulle sensazioni gentili causate dal respiro. Allowing them to bring silence to the mind. Lasciare che queste portino il silenzio nella mente. Calmness to the heart. E calma al cuore. Stillness to the body. E tranquillità al corpo. Rising, falling. Salire, scendere. The noting should be at the same time as the feeling. Le annotazioni dovrebbero essere nello stesso momento della sensazione. Don't say salire before you breathe. Non dite salire prima di respirare. This will give you the impression of controlling the breath. Questo dà l'impressione di controllare il respiro. if the mind is wandering, se la mente se ne va in giro, really recognize and acknowledge what is drawing the mind. Veramente riconoscete e prendete coscienza di ciò che stimola la mente. The emotion or the attitude. L'emozione o l'attitudine. Thinking, thinking. Pensare, pensare. Irritation, irritation. Irritazione, irritazione. And then draw the attention back to the breath. E poi riportate l'attenzione al respiro. Feeling sleepy or tired. Sentendosi addormentati o stanchi. So make the effort. Fate lo sforzo. Lift the spine. Innalzate la spina. Can open the eyes, let the light in. Potete aprire gli occhi e lasciare entrare la luce. And of course you can stand up. E naturalmente potete anche mettervi in piedi. Hopefully you feel a bit more concentrated. E alla fine potreste sentirvi più concentrati. A bit more calm. Un po' più calmi. See if you can catch the very beginning of the in-breath and stay with those feelings to the very end. Guardate se potete vedere proprio l'inizio dell'inspirazione e stare con quella sensazione fino alla fine. The very beginning of the out-breath and stay with it to the very end. E poi proprio l'inizio dell'espirazione è stare con quella sensazione fino alla fine. If when you do this you find yourself becoming tense, se facendo questo vi sentite tesi, have more the impression of receiving the breath. Abbiate più l'impressione di ricevere il respiro. Sit back within yourself, receive the breath. Sedetevi dentro di voi e ricevete il respiro. Rising, falling, salire, scendere. So now we can open up to whatever draws our attention. E ora potete aprirvi a qualsiasi cosa che spinge la vostra attenzione. Within the sphere of awareness. Dentro la sfera della consapevolezza. If we hear a sound, se sentiamo un suono, so we're interested in the process of hearing. Siamo interessati nel processo dell'udito, dell'udire. Our attention is at the eardrum. La nostra attenzione va alla membrana del timpano. We're not interested in the bird. Non siamo interessati nell'uccello. But the quality, the sense of hearing. Ma la qualità del senso dell'udito. If it's a sensation in the body, se è una sensazione nel corpo, pleasant or unpleasant, piacevole o spiacevole, if it draws our attention, se questo muove la nostra attenzione, we don't go looking for anything, non andiamo a cercare niente. If it draws our attention, we go there. Se qualcosa muove la nostra attenzione, andiamo lì. We feel it. Noi andiamo a sentire The texture of it. La grana di questa sensazione. We experience it intimately. Noi ne facciamo esperienza intimamente. Itching. Il prurito. Pain. Dolore. So we don't do anything, we just feel it. Non facciamo niente, semplicemente sentiamo. In the same way, any sensations in the body caused by emotions or moods. E nello stesso modo, ogni sensazione nel corpo causata da emozioni o stati d'animo, same, you go to it. Allo stesso modo, andate lì. You feel it. Sentitela. The texture of it. Di che grana è fatta. You experience it fully. E fate un'esperienza completa. Find a little noting word which helps you pay attention. Trovate una piccola parola di annotazione che possa aiutare a mettere l'attenzione. Anxiety. Ansia. Depression. Depressione. Happiness. Felicità. And see if you can stay with it till it begins to disappear. E guardate se riuscite a restare con questa sensazione finché se ne va. Even if it stays with us the whole sitting, that's okay. Anche se resta con noi per tutto il periodo della meditazione seduta, va bene. So we begin always with the breath. Quindi cominciamo sempre col respiro. This is our resting. Questo è il nostro punto di riposo. And when we are settled, whatever draws the attention. E quando siamo stabiliti in questa attenzione, qualsiasi cosa che venga a stimolare la nostra attenzione, within the field of awareness, dentro il nostro campo di coscienza, di consapevolezza, go there, feel it, experience it intimately. Andate lì, ascoltatela e sentitela completamente. Fate un'esperienza completa. Rising, falling. salire, scendere. Become aware of how you are reacting to what you are experiencing. Prendete coscienza di come reagite a quello che state provando. If there's any discomfort, se c'è una scomodità, be aware of the desire to move. Diventate consapevoli, siate consapevoli del desiderio di muoversi. Don't move. E non muovetevi. Draw your attention to the feeling of aversion. Portate l'attenzione sulla sensazione di avversione. Feel it. Sentitela. Experience it intimately. Fatene un'esperienza intima. If the discomfort becomes too much, se questo dolore diventa troppo forte, then make the intention to move. Allora fate l'intenzione di muovere. Move very slowly. E poi muovete molto lentamente. And see how the pain begins to disappear. E guardate come il dolore comincia a scomparire. And at the same time, the agitated mind becomes calm. E allo stesso tempo la mente agitata diventa calma. Beginning to separate the body from the mind. Cominciando a separare il corpo dalla mente. If something pleasant arises, Se insorge qualcosa di piacevole, be aware of how you are drawn to it. Siete consapevoli di come siete portati verso di esso. How you want to maintain it. Come volete mantenerlo. How you like to develop it. E di come volete svilupparlo. So planning something like a holiday. Come pensare a fare una vacanza. How the mind wants to think about it, create a story. Come la mente pensa a questo e crea una storia. So, keep coming back to the body. Allora, continuate a tornare al corpo. Feel the excitement. E sentire l'eccitazione. Be aware of the desire to indulge. Essere consapevoli del desiderio di indulgere in questa sensazione. Desire, according to the Buddha, wrong desire, according to the Buddha, is the psychological cause for our suffering. Il desiderio sbagliato, secondo il Buddha, è la causa psicologica del nostro soffrire. Becoming more aware of how everything we are experiencing is arising and passing away. Diventare consapevoli che tutto ciò di cui facciamo esperienza insorge e poi svanisce. Thoughts come and go, images come and go. Pensieri e immagini vanno e vengono. Nothing is ever repeated. Niente si ripete. Emotions and moods arise and pass away. Emozioni e stati d'animo insorgono e svaniscono. Emotions can be similar, but they're never the same. Le emozioni possono essere simili, ma non sono mai la stessa. Sensations in the body arise and pass away. Le sensazioni nel corpo insorgono e svaniscono. No sensation is the same as another. Nessuna sensazione è la stessa di un'altra. Everything is unique. Tutto è unico. But everything is arising and passing away. Ma tutto insorge e svanisce. Nothing is reliable. Niente è affidabile. Become more aware of how everything you're experiencing. Diventate più consapevoli che tutto ciò di cui fate esperienza is an object. È un oggetto. There's an observer and what is being observed. C'è un osservatore e c'è ciò che viene osservato. There's a feeler. And something which is being felt. C'è qualcuno che sente e qualcosa che viene sentito. There's an experiencer and something which is being experienced. C'è qualcuno che fa esperienza e qualcosa che è l'esperienza. È un'esperienza, sì. You can make this more obvious. Potete far diventare più evidente questo by putting the word there, là, in front of the note. Mettendo davanti alla notazione la parola là. Mm. So, there's pain. Là c'è dolore. Over there. Over there. Laggiù. Ah. So that you're clear that there is a distinction between the knower and the known. Così fate chiarezza che c'è una distinzione fra colui che conosce e ciò che è conosciuto. The perceiver cannot be the perceived. Colui che ha la percezione non può essere ciò che è percepito. becoming more aware of how everything you're experiencing, diventando più consapevoli di tutto ciò, che tutto ciò di cui fate esperienza, is arising of its own accord, insorge per conto suo. Thoughts and images come and go whether you want them to or not. I pensieri e le immagini vanno e vengono, che lo vogliate o no. Emotions and moods are arising and passing away whether you want them to or not. Le emozioni e gli stati d'animo insorgono e svaniscono sia che lo vogliate che no. Sensations in the body, pleasant and unpleasant, are arising and passing away whether you want them to or not. Sensazioni nel corpo, piacevoli e spiacevoli, insorgono e svaniscono che lo vogliate o no. We're not in control of them. Noi non le controlliamo. How can they be me? E come possono essere me? Putting aside all instruction, mettendo da parte tutte le istruzioni, just watch, just feel, just experience. Semplicemente osservate, sentite, fate esperienza. Whatever draws your attention, di tutto ciò che muove la vostra attenzione, within the field of awareness, dentro il campo della coscienza, don't do anything. Non fate niente. when we come to the end of a sitting, e quando arriviamo alla fine della seduta, it's always good to reflect for a moment. È sempre bene riflettere per un momento. Did we really make the effort to keep coming back to the present moment? Abbiamo veramente fatto lo sforzo di ritornare al momento presente? If we did, we should congratulate ourselves. Se lo abbiamo fatto, dobbiamo congratularci con noi stessi. If we could have done better, we should encourage ourselves. Se avremmo potuto fare di meglio, allora dobbiamo incoraggiarci. Don't get into self-criticism. Non entriamo nella critica verso noi stessi. How did we deal with the various physical and mental states that arose? Come ci siamo relazionati agli stati fisici e mentali che sono insorti? Were we skillful, or were, could we have been, or could we have been more skillful? Siamo stati capaci o avremmo potuto esserlo di più? Just choose one of them. Sceglietene uno. Feeling tired, for instance, or feeling agitated. Ad esempio, la sensazione di stanchezza o quella di agitazione. How did you deal with it? Come ci siamo relazionati con questa sensazione? So again, if you thought you were skillful, congratulate yourself. E ancora, se siamo stati capaci, congratuliamoci con noi stessi. If you thought you could have been more skillful, encourage yourself to be so. Se pensate che avreste potuto essere più capaci, incoraggiatevi. Which of the three characteristics of existence was most obvious to you? Qual delle tre caratteristiche dell'esistenza vi è più evidente? The role of desire, wanting, not wanting. Il ruolo del desiderio, volere, non volere. Or how everything is so impermanent. O come tutto è così impermanente. How everything we're experiencing is an object. Tutto quello di cui facciamo esperienza è un oggetto. Not under our control. E non è sotto il nostro controllo. It's good to make a resolution. È bene prendere una risoluzione. For instance, if I feel sleepy, I will immediately open my eyes or I will stand up. Ad esempio, se io mi sento che mi viene sonno, immediatamente aprirò gli occhi o mi metterò in piedi. So open your eyes gently. Aprite gli occhi gentilmente. So So just to give our legs a break, we will do the metta practice in a standing posture. E per dare un to relax the legs. Sì, per rilassare le gambe faremo metta in posizione in piedi. So make your intention intending to stand. E quindi ponete l'intenzione di salire in piedi and do it slowly. Be aware of all the actions it takes to get you into a standing posture. E fatelo lentamente, prendete coscienza di tutte le azioni di cui c'è bisogno per portare questo corpo in una posizione intending to stand. Intenzione di mettersi in piedi.